Il dragone di molte teste e il dragone di molte code, da Favole, di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. Narra la storia, che fu già in Lamagna, del gran sultano un certo ambasciatore, così millantatore del suo paese, che al cospetto un zero eran per lui le forze dell'impero. Come, un tedesco fece a lui osservare, noi contiam de vassalli in questa terra così potenti che potrebbe armare un esercito ognuno in piedi di guerra. Questo, soggiunse il turco intelligente, un certo caso mi richiama in mente, strano, ma ver, che è capitato a me. Mi trovavo per caso in una selva, quando venne a passar dietro una siepe un'idra a 100 teste tanto orrenda che non vidi giammai la più tremenda. Ma più del mal fu grande la paura che il grosso corpo della brutta belva non poteva passar di quella siepe traverso la fessura. Stavo pensando a sì strana avventura quando un altro dragone con un sol capo sopra un gran corpaccio e non so quante code alla riserva dietro la siepe a un tratto si affacciò. Prima col capo aprissi una finestra, per questo il corpo e poi le 100 code dagli arbusti tirò a poco fuori dall'impaccio. E questa, io credo, in ultima sentenza, tra il tuo signor e il mio la differenza. Fine della favola. Il dragone di molte teste e il dragone di molte code. Questa registrazione è di dominio pubblico.